rapisco. Sono strani uomini, droga o con modulazioni strane alla voce. Pensa, eravamo in tre, ora siamo solo più in due. Eppure sembra proprio bello fare sottrazioni di amici onesti. Sì, l'onestà ci ha resi un po' più fragili. Sì, mi aspettavo di vederti tornare presto. Tu ci hai traditi con la forza della droga. Sei scappato, disergiche emozioni su di te, ma non su di noi. Uomini in droga stupendi ti ha portato via con la forza. Modulazioni stupende ti ha portato via con la loro macchina scoppiettante, imbarazzante. Confusioni, emozioni su di te, ma non su di noi. Mentre cammini per strada non ti aspetteresti mai che prima eri in tre, adesso sei in due. Chissà domani quanti sarai, ma forse mi sto sbagliando. D'altronde la mia voce non è modulata come gli amici droga o come gli amici dalla voce modulata. Ehi, ci sono rimasto proprio male. Ehi, mi ci vorrebbe un amico in più nel gruppo, così da rimpiazzare quelli che poi se ne vanno e lasciano quel vuoto che si chiama un vuoto lasciato dagli amici. Uomini in droga stupendi ti ha portato via con la forza. Modulazioni stupende ti ha portato via con la loro macchina scoppiettante, imbarazzante. Confusioni, emozioni su di te, ma non su di noi. Caro amico, te lo dico con franchezza, mi hai deluso. Ormai hai fatto una scelta. Hai fatto una scelta. Ormai ti sei giocato male la tua vita. Speravo che le modulazioni fossero una realtà lontana. Invece ti hanno preso con la forza e ti hanno trascinato via. Trascinato via. Spero che un giorno ti renderai conto degli sbagli che stai facendo e che ritornerai dai tuoi amici. Amici lisergici. Uomini in droga stupendi ti ha portato via con la forza. Modulazioni stupende ti ha portato via con la loro macchina scoppiettante, imbarazzante. Confusioni, emozioni su di te, ma non su di noi. Ecco, insomma, hai capito, no? Cioè, qual è il problema? Qual è sto problema qua? Perché, cioè, no, hai capito, non esiste. Cioè, non esiste proprio. Non esiste. E alla fine, cioè, non è che puoi, voglio dire, ma no. Cioè, ma, che ne so, fai conto, tu vieni da me. Tu vieni da me e mi dici vado. Però allora, scusa, sentimi bene. Ma se sei da me, cosa te ne vai? Uomini droga stupendi ti han portato via con la forza. Modulazioni stupende ti han portato via con la loro macchina scoppiettante, imbarazzante. Confusioni, emozioni su di te, ma non su di noi.